tagli il risotto. Sì, era l'affare della colonnina che era troppo vicino e faceva rientro perché era vicino all'antenna. E allora io mi ho finito col telefono, ricordato. Tutto caragara. Queste cose sono molto delicate, uno sbaglio, si è fottito. Yarusoku. Oh iaia. Ma quale mi conviene a prendere, la stazione saldante o quella come la tua? Guarda, questa che ti ho detto io, la 952 lì è buona. Poi se vuoi risparmiare ci sono, costano di meno. Più risparmi e meno hai. Ma la verità c'ho tanti anni questa, Però purtroppo non mi sta dando problemi il coso, il saldatore. K. 900, come si chiama? Allora, 952D. 952D. Yes. Se la guardo a vedere. E quanto costa? Intorno agli 89, 90. Sei risalito al problema, Lu. Quale problema? Quell'errore che ti dà. Allora, l'avevo sistemata, avevo cambiato due resistenze e poi di nuovo la sto facendo e diciamo c'è la scheda un po' cotta, l'ho usata un bel, l'ho usata come l'acqua. Ma va, te la devi pigliare nuova. Ho già il saldatore Natali, quello a stilo, va bene lo stesso, per fare le micro no, però già riesco a farle comunque, dai. Sono dei connettori di telefono. Cappa, quella c'ha solo l'aria calda in più e boh. 90 e 49 costa. Ma a te ti serve solo l'aria calda o ti serve anche lo stiletto? Il saldatore mi serve più che altro, l'aria calda non è che mi servano. Compratene un'altra, Natali. Compratene un'altra senza aria calda, ci sono. Se vuoi risparmiare ci sono. L'aria calda io a cosa la uso? Io non ne devo fare saldature, cioè a disaldare roba, perché l'aria calda si usa per quello, per gli SMD. E io già la uso, a voglia. Beh, tu sì. Bene, mi stai ascoltando, sì? Certo che ti ascolto bene. Gli amici Roberto mi ha organizzato i tappi, adesso me li piazzo nel Typhoon. Por favor. legge segnale come? AS5. Hola Santa Lucia, vamos a ver si va escuchando la Italia que va llamando adelante, pero comprendido, por favor. Guarda un po'. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diciamo che fai gli arrivi 9, dai, segnale 9. No, già scusi, dai, già va bene. Buona gara. Positivo cavallo, ti avrete niente. La radio l'ha abbassata. Ma il 2 più 4 l'ho abbassato, avevo mandato. Va bene, dai. Andiamo, andare. Alla pianerola. No, vabbè, come fai tu? Forse ho la bimba anche lunga, capito? Ah, ho capito, va bene, là. Purtroppo arrivo un po' bassino. Mi appena arrivo dalla 25 devo piazzare l'antenna, là, che me l'ha sistemata Luca. Vediamo un po' se va. Cosa ne c'hai? Un radiale di manto fa. Ah, buono, anche io sono andato da 5, devo piazzare, però non mi sento. Ma la mia è un radiale. Ma i radiali li ho tutti recuperati. Ne ho 5 di radiali adesso, tutti i miei colleghi, la famiglia. Ho parlato di nuovo un sacco, guarda, sono piazzati, già approvata lì, c'è la grande. È 7 metri in ingresso. Positivo cavallo, ti avrate, chiede. Guarda, andate bene la guerra. Tutto positivo, non ci stanno problemi, frate, chiede. Non lo procuri lo Smith e fra di iPhone 3009, qua ce la fa, ce la fa a procurarlo. Ah, sai che ce l'ha avuto lo Smith e 3009, non l'ha fatto, cioè, non lo vedo di prima, te l'ho detto, dopo no. Cioè, stavi pagando, Quello dato c'è anche a Francesca, quello di sì. Allora, nuovo costa 12 euro, l'abbiamo visto su AliExpress. Se mi capita, te la metto da parte, non sono proprio tutto. Se riesco a acquistarlo, vediamo, mi ha dato il link ieri, vediamo. Perché lo voglio cambiare al iPhone. Poi se non è lì su Bazenzia. Però so che l'ho cambiato, ma è un altro problema. Praticamente lo Smith mi impazzisce in trasmissione. Ogni tanto funziona bene, ogni tanto impazzisce, scende, sale, scende. Qualche problema sul lago, Luca, capito? Come, fra? Adesso che c'hai, qualche c'è, ci deve essere qualche problema sul lago. Ecco perché ti fai il discorso, capito? Ma la ricezione è perfetta, mi. Lo so, ma è in trasmissione quello che non fa scatto. Potete, funziona bene, molte volte è fastidioso, dai, no. Adesso vediamo. E poi se riesco a trovare la mascherina. Ma c'è qualche mascherina? Allora, sto uscendo con 20-40 modulati. Allora. Va bene, fra la grande. Ma no, la grande. Tutto aperta. E c'è soltanto la fine. C'è una bomba, una bomboletta. Ma è già va bene, per esempio, comparendo il baracchino, se mi hanno detto il baracchino, lo so. E poi sto qua, guarda che c'ho un Intec dentro la scatola, un 34 canale, lo trovo 30 euro, nuovo. Ho capito, se c'hai un... Un Intec di 34 canale, però non c'ha l'FM, lo trovo 30 euro, quanto da c'è lo faccio? Non c'ha l'FM, hai detto. Ma ho capito, non è AFM. No, non è AFM, mettere 34 sono AFM. Però va bene, questa è la pista, no, c'è da lui. Ma scappa, c'è anche tema, tutto qua, per lui. Ma la foto. E poi ora lui, se riesce a fare 25 euro, non capisco, non faccio niente. Ma la foto, magari se va qualcuno lo faccio vedere. Ma la mano, c'è la casa, ti faccio la foto tra la mia volta. Ma è come quello che va a Maria Luisa, è così. Bravo, un uguale identico, quello meno, 50 la Lucca, l'ho già misurato. L'ho misurato proprio da un fatto, un altro, un altro mio figlio professionale. Ma ci può fare un modulato, non di più, eh. 4 e mezzo, ci sono qua. Ehi, ehi, ehi, alle 11 arriva a 25 a prendermi. Ma qui adesso vado a fare la luce, ma questo lo devo fare una commissione, travagliata. Ma poi Luca, io ti mando la foto, quando arrivo a casa, e te la guardi, ok? Dai, ciao, buona... Buon sabato, con tutto ci sono già 50 a parte nostra. Ciao. Oggi ti va a cavare, oggi va a te, tutto ricambiato, la gente, cava, cava. Saluta Lucia, ciao! C'è qualcuno su 10? Prova, prova, prova radio, prova, 1, 2, 3, prova, prova, prova. Allora, c'è qualcuno qua su 10? Che bagaba! Becca bagaba! Oggi ti paga Maro, ci avrà detto, ci sono proprio che perché beh. E tra un po' Natali viene la 25 a prendermi, come si dice? E devo piazzare l'antenna così magari ci si facciamo le prove. Che perché beh. Così ti paga Maro, ci avrà detto, che perché beh. Così ti paga Maro, ci avrà detto. Senti quella vita mia che beh. Che beh. Ascolta, ma quel Movicom che c'hai tu, omologato è? Sì, ma non è marcato c'è. Non è marcato c'è, per la fregatura. Però è legato. Vabbè, a me mi sviavati nei milinoghi. Vuole omologato c'è, se no qua mi fanno un culo grande così, quindi. Ma è Natalia, nel 2009 comprati, è marcato c'è, si trae tranquillo, ma non ti esce bene, non ti va di nuda. Secondo me se tu ti vedi il 2009, lo lasci così, verginello, come nasce, e sai benissimo si possono fare le modifiche, te lo metti solido, esclusivamente di ALC, li metti nel MB più 4 e vai, no, alla grande, o di più, lo lasci a 4 watt. Ma è tanto cucciolo di sapparicchi. Io ho usato, ho preparato 150, nuovo lo paghi 200, dipende, 220, 230. E vedi? Eh sì, allora, nuovo costa 205 euro Natali. 205 euro. Poi se quando lo compri, anche in Italia costa... 188, 190, 200, 210, 220 ti viene. Beh, costano. Dimmi tu, ma tu devi in casa, devi avere un apparecchio che questa disegna qui. Non so, però volendo puoi fare un po' modificato. Quindi esce bene, no? Mi confermi che esce bene? Vediamo. Costa. Questo qua 180, 190, 200 euro. Poi c'è il modello vecchio, Natali, usato, sembra nuovo. Superstar SS 3009, nero, 6 banda, MFM 6 BCB, 166 più 38 euro di spesa. Ma non è bloccato lì, su lì sono arrivati. Infatti, dico come prendi questo qua, questo vecchio io, che c'ha già anni. Lo so. Se lo trovavo usato, ma avevi preso usato, tanto per tenerlo come omologato. Questo qua c'è già, lo sposto è dentro la normale. Poi la legge se lo vuoi mettere normale o rifatti da 7 watt, o 5 watt, forse 5, se non mi ricordo, 5. Allora fa 5 a 7 modulati, perché c'è picco di modulazione. Sì, già lo so. E così a gruppo Marasucci. Il cova costa 2,13, però cazzo, usato quanto lo puoi pagare? Più di 100 euro non lo puoi pagare. 2009? No, il cobra costa 2,13, ma fallo dentro 20, dai. Bisogna vedere se te l'ho dato quella la cifra lì. Bisogna vedere. E vabbè, tra una cosa e l'altra mi è venuto quasi 150 euro questo qua. Quello mi piace perché c'ha lo smitter normale, capito? Mi piace pochissimo. A chi si digitali, mamma mia. Microfono originale. Sì, infatti. Ma c'è avuto addolore, insomma. Mamma mia, le gambe mi fanno male, io stavo tagliando erba. Tutti anche mi dolore, l'acido lattico. T'ha provato. Quando sei da me che non lo vai sul travaglio, ti prova. A me, per esempio, stavo facendo un tiramisù alle fragole. Mia moglie l'ha voluto fare così oggi. So che a mal di schiena ci credi a stare dritto. Se ti credo Natale, ti credo. Ho preso pure la maledicina. Che faccio se non mi sento? È stata abusata a pigliarmi dei coccodrillini che mi servivano per mettermi lì in quell'affare che mantiene i pezzi. E poi per farmi qualche coccodrillino col filo. Ma ascolta, li prendono ancora quegli spinotti che poi c'hanno l'innesto da sopra anche. Lo spinotto, allora, gli spinotti, visto come sono fatti, quelli che vanno inseriti negli alimentatori, no? Ce li presenti? Però ci sono quelli che hanno il buco e per infilare un'altra tensione sopra. Sì, già lo so. Ma adesso avevo uno di quelli, rimane a Fusaro. Che ce li ha Fusaro? Ho capito. Aspetta 2 secondi, a tagliare il bagno, arrivo subito. Il bagno mi chiama. Gara. Me lo sto facendo arrivare lui. Luca. Luca. Attento Luca, ci sei? Ca tu sei? Ciao pure, Rubio Fossi. Rubio Fossi di un dì, però. Di via Roma 51. Ciao Massimiliano. Ebbene, Rubio Fossi prima era venduto in via Roma 51, là sono bancali. Aspettina, voglio vedere una situazione qua che sto guardando sul computer. Ecco qua. Vediamo un po'. Perché che radio stai usando? Sei un po' bassino di radio? Cosa sto usando, quello là? Sempre. C'ho anche l'M93, però non amplifica nulla, non si può toccare questo. Come che non amplifica nulla? Sto qui, e cosa amplifica? Va giù l'M93 a manetta, non ce n'è coso per regolare l'LC qua, no? Sei sempre con quella là, va? Sì, mi ho ordinato il 3009, nuovo, tanto Armand che è omologato, infatti questo 4 watt in AM e 12 watt in SSB. Io andavo, almeno lì ci provate il microfono normale e nessuno ti può rompere le balle. C'ho anche l'MB+4, ne è uno in scatola. E allora già andavo, attacchi quello, se in caso che attacchi il normale. Sì, infatti. Ma a me mi basta che sia quello omologato, almeno lo posso tenere qua e non rischio nulla. Invece se mi boni uno che non è omologato, rischi, se ne possono venire in qualsiasi momento. Ascolta, ma quello là non hai chiesto se ti fa salire a sollevare l'antenna? Sì. A quello invece metto io, amico tuo. Una donna è quella dell'ultimo piano. Cosa? Una donna quella dell'ultimo piano. E tu non hai detto, glielo chiedevi se ti faceva salire per mettere l'antenna più in alto. Già glielo chiedo. Secondo me già sollevando l'antenna risolvi 1000 problemi lì e ho nata lì. E già comincia a non disturbare se la metti più in alto. E io sono disorganizzante. E beh, c'è su gas. Io nell'altra casa, a caso potessi fare quello che vuoi, che se invece... Cosa vuoi fare? Vabbè. 162 l'ho trovato. Buono, buono. Marchiato c'è? E allora, c'è quello 40 canali, il Susarrado M. Sì, ma c'è lo Susarrado, però tiri su un po' la modulazione, è sempre 4 watt solo, quindi non ti posso rompere le balle. Gli alzo solo la LC per poter amplificare un po'. E boh, i watt li lascio normali. Vabbè, fai così, almeno sei tranquillo. Sì, infatti. A chi la denuncia è già facile da Cagliari, cazzo, io sto aspettando che vengano a controllarmi. Ah, hanno di nuovo rifatto tutto? Sì, e la paghi sui suoi corsi. Allucinante che... Ma poi va né di mani né di bili. Vabbè, l'importante è che tu sei a posto, hai pagato tutto e c'hai quello omologato a bui. Infatti, secondo come va, ti posso vedere chi c'è? Non li posso vedere manco, pur se è omologato, quindi non ve lo posso manco vedere. In modo che non ha già niente da dire. Ma tu basta lasciare quello, secondo come ti dici, che cosa? Adesso la scorraglio se la paga chi c'ha il problema, gli usai, sì. Non lo sanno dall'altra volta che io non ho il problema di disturbare, perché non disturbo. Sono loro che hanno le antenne messe male. Se hanno salito l'analizzatore di spettro qua addirittura e hanno controllato l'uscita della radio, hanno controllato a vedere se diceva Buriganari di la televisione, io da me non la distribuo e faccio l'amplificatore burueo, a chi se io stacco l'amplificatore ti posso vedere che non ricevo la televisione. Ma dico, se non trovano il problema da te, li fanno pagare a quelli che hanno chiamato. Pariubio. A me quello là mi ha detto, lei può parlare, se è in regola che ha pagato tutto, può parlare, può. Semmai gli dica prima di intervenire noi a chiamarsi il tecnico e aggiustarsi le antenne. A quelli là. E beh, sarà meglio. Se ci usi i cimieti, so guai, perché fanno danno. E a me mi hanno fatto danno, per esempio, oltre a mettermi la multa, mi hanno sequestrato l'apparecchio, che vabbè, quello valeva pochi soldi, era omologato e tutto, solo che non era marcato GE, però me ne hanno pigliato un rosmetro di radaio, e questo a 150 euro, a me ne hanno fatto danno. Sì, metta lì, cosa vuoi fare? Purtroppo è un macello. E lo so, ma vabbè, va bene così, cosa vuoi ti dica, tanto. Aspetta un attimino che ascolto un messaggio, aspetta. Yeah. No, assolutamente no. Allora, watt sono o 12 watt. Cazzo, non si possono regolare le stazionarie in quell'antenna. No, lì c'è una volta rata, la stazionaria a 2, ciò. Di più 2,5. Che cazzo, sono troppe. Ma c'è il dissipatore bollente. E infatti, ho ordinato quella roba, mi 162,31 l'ho pagato. Ma macchino? Sì. 3009? Siamo arrivati il 5 giugno. Ma il 3009? Sì. 150? 162,31. La spedizione? Gratuita. Come? La spedizione gratuita, gratis. Ma è buono il prezzo. Credo, solo che adesso non so come i canali a telesegna quando tu ti sposti di banda. No. Quindi non lo sai se si... Vabbè dai, già me lo spieghi quando mi arriva. Via. Se io devo andare per esempio sul 45, come si fa? Aspetta un attimo. A 2 sono. Ma che antenna è? Io avrei voluto usare l'antenna è. L'antenna è un coso, Natali, un radiale di manto qua. Ah, e come fai? E quanto è alto questo? Quanto è lungo? Aspetta un attimo, 2 secondi, aspetta. Natali, Natali no. Dimmi. Adesso come ti arrivo? Guarda un po'. Che forte mi arrivi. Più forte? Sì. Anche tu, l'ho messa praticamente coricata. Oh. Stazionarie. 1,5. Aspetta. 1,5. 1,4, 1,5. Allora la gara così. Se arrivi a me forte, arrivi forte anche agli altri. Massimiliano poco fa sono a ripreso. Natalino, yeah. Adesso più basso sono. Va. 1, 2, 3, prova radio, prova. Prova segnale. Ah no, quasi a fondo scala, sì. Picchiata. Che la radio è bella. C'è anche Concetta qua che trubo di. Ah no, che non ci credo. Ma non puoi fare una registrazione con il telefono, ma la mandi su WhatsApp. Guarda cortesia Natali, sono curioso la... per sentire un arrivo di radio, dai. Aspetta un attimo che accendo il telefono. Luca, Olu, parla. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, attenzione Natalino, 1, 2, 3, prova, prova radio, prova radio. K, K, attenzione Natalino, Alfa 1, se tu ascolti qua. Attento, capa, gaga, cambia! Davvero? Domine, mica te l'ho mandato. Attento dirci, c'è qualcuno? Ciao Robè, mi senti Robè? A Puglia, dove sei? La Marina, là, ho ripetato l'antenna. Aspetta un attimino. Aspetta. 1 e 6 di stazionaria. No, già sei forte, quasi 9 più 10, si è migliorato tantissimo. Ma ci mette la verticale o l'ho messa orizzontale l'antenna? Può dire anche la verticale, che antenna è per? Una cosa, un radiale di manto qua. Una roba tutta a posto. Perfetto, benissimo, grazie. Un morto sono, di faccia però. No, sono contento, ma non ne dubitavo lui, infatti ho cercato a teatro che cinesi, a ricchi di cinesi è meglio che le do a un amico. Allora, il discorso è che loro, te l'ho già spiegato, vabbè, usano materiale non buono, quello almeno originale, va su sicuro. Sì, è perfetto. Magari mi pare pure un meglio originale, per come ha detto mia figlia, lo sai, mi ha detto, mi sembra anche meglio di... Allora, ascolta un'altra cosa, se volevo io ne prendevo uno che non le pare all'originale e ci avrei guadagnato di più, ma siccome... Poi il discorso è che la gente fanno, come si dice, mi viene la parola adesso, in generale me lo provo le scatole, allora preferisco prendere un pezzo, guadagnarci di meno, non me ne frega niente, però accontento il, diciamo, la, il cliente, chiamiamolo così. Punta sempre sulla qualità, scegliete i clienti come facciamo noi, è inutile poi abbassare i prezzi, magari fa cose e poi la gente è scontenta, meglio magari in certe situazioni guadagnare un po' di meno, però sanno che lavori bene onestamente e ci ritorna. Io sicuramente, vabbè, con te non ne dubitavo, ci sarei, ci ritornerò e te ne manderò eventualmente di gente, dico mica c'è un amico, venga. Poi è come lavoro mio, io ho modo di fare economia, di abbassare i prezzi, uso roba più scaccina, utilizzo stucco anziché raddrizzare e mi faccio vedere bello, invece no, io mi uso materiale di qualità, poi se sbaglio, e sbaglio quanto e più degli altri, lo rifaccio il lavoro. Ah, beh, certo, comunque grazie per il tappio, sono usciti magnificamente bene, dai, vanno benissimo. Vabbè, dai, non è che ci ho detto dargli una spruzzata al verniciatore, non è che poi la vita c'è quella specie di fettuccio, però secondo me di lì c'è qualcosa di ossidazione, qualcosa sotto, la carteggiata magari è rimasto buono, non lo so, perché quando l'ha levigata era tutto liscio e poi ne è uscito fuori, probabilmente ha tirato qualcosa sotto, buh. Comunque, quella è la parte che si vede o so, l'altro palato dove ce l'hai? Sopra o sotto? Sotto, Robè, sotto. I buchi vanno sopra o sotto? No, i buchi vanno sotto, è il capo di sopra, là, è, là c'è quella macchia lì, quella specie di impronta, perché mettevano le MP4 sopra. E buh, non lo so mai cosa è successo, sinceramente, dai. Ok, chi c'è qua su questo canale? Natalino. E tu di segnale sicuramente hai migliorato anche la ricezione adesso, Lu. Sì, dove c'è 9.20 qua. Ma in che zona sei tu di Sassa? A Santa Maria di Pisa sono. Cazzo, quindi stai andando alla grande. E c'hai quel baracchino, il Typhoon, cosa c'è? Ma vuoi ridere? Adesso ti mando la foto, adesso guarda quando ho messo l'antenna, aspetta. Natali. Uia, dimmi Robertius. E cosa stai combinando tu, in quel loco? Sì, cosa sto combinando? Stavo dando i controlli a Luca. Mi sono ordinato il 3009, mi sono ordinato quello omologato. Eia, e quanto costa nuovo? Ma nuovo lo stai prendendo? Poi allora. Quanto costa? Dimmi Robè, stavo parlando con la 50. Ah, scusa, ho detto quanto costa? 162, virgola qualcosa. L'ho comprato da Amazon. Costa meno della 48 ed è meglio. Non lo so qui, e per forza devo prendere quello omologato che è marcato CE e tutto, capito? Come quello che c'ha già anni. Io l'ho preso nuovo perché non ne ho trovato a seconda mano. Ma poi gli allaghi la LC? Per forza, quella solo però mi, i vatti li lascio normali. No, i vatti tanto non è che cambi, se ne hai 4 o se ne hai 7, non è che cambi più di tanto. Poi, se ti vuoi aiutare, già c'è il sistema di aiutarti, dai. L'importante è che magari esci un po' più forte di radio. E infatti a me poi non mi interessa pompare, nulla. Lo lascio così, omologato e boom. Al limite gli attacco le MB4, che ne ho uno in scatola. Se va bene quello vecchio, gli attacco quello vecchio, e se no gli faccio gli attacchi con quello che c'ho in scatola, ne ho due, capito? Già non ti manca la roba, dai, già puoi fare. Allora, salire le aziende, già nel Multicom 80 euro, vai, trova 80 euro. Il meno che l'ho visto 380 euro usato. Magari un cantare. 80 euro non ti danno neanche una sussa. A meno che non ti danno un baracchino rotto, quello sì, ma se lo vuoi funzionante, guarda, quel baracchino, io non so, secondo me non costa meno di 500 euro nuovo, ma proprio per volerti bene. Ma io gli ho visti 180, 200 euro, non è vero che costano di meno. Non ne trovi apparati così, mi sarebbe piaciuto tantissimo, perché almeno sarebbe stato un base omologato, capito? Ma qua c'ha tutto, non le manca niente, cioè sembra un HF, un giorno che se è capitato lo faccio vedere al vero. Può non piacere perché è di concezione moderna, c'è un po' di plastica, non è di quelli tipo, è come per dire gli amplificatori di adesso, di casa, per audio sono tutto plastica, prima te li facevo in alluminio, i pomelloni in alluminio, ma è tutto plastica, però anche se tu guardi il TS2000 lo vedi tutto plastica rispetto a un 940 lì è una gaggata, però sono epoche diverse. Infatti, vabbè. Quello lì lo lascio normale con i canali 40 canali solo perché è bloccato, capito? C'ha un jumper dentro ed è bloccato da dentro. No, ma manda a fare la roba a Luca. Luca, ci... Cata, non mi immaginavo, e riesci a irradiare con l'antenna. E riesci a irradiare, allora. Se fa lo stesso, sono più basso. A me è migliorato tantissimo, sei quasi 9 più 10. Prima ti tiravo fuori intorno a 8. La radio buona. La radio è perfetta. Ah, andava, era microfono normale, va benissimo. Come microfono normale c'hai? Normale che cosa? Mai toccato l'apparato, qualche cosa? Ma questo qua lo usiamo con le MB più 4, vabbè, attimo del microfono, aspetta. Ma cos'è il Typhoon questo? Sì, ha il Typhoon. No, sta andando benissimo, molto forte di radio. Andava. E a Zeta, se arrivo forte, quando mi arriva il 3009, che ti faccio schiattare. Aspetta. Stazionari adesso 1, 1 e 2, 1 e 3. Ok, già va bene, la carussi Luca, tu non ci volevi credere che mi arrivavi più forte. Qua è migliorato tantissimo, ma tanto me. Poi gliel'ho detto, stai arrivando 9.20 qua, lui non ci voleva credere, gli ho mandato la registrazione via WhatsApp. L'avevo pagato ieri, cacchio, era una cosa assurda. Ieri notte poi mi sono spostato, sono andato 26 o 8, mi sembra per vedere. Sono qui stato uno dietro l'altro, questi tedeschi, cioè se non mi volevano mollare, poi entrava un altro, guido. C'era qualcuno che parlava in italiano oppure? Figurati, con tutti gli italiani che ci sono in Germania. No, si arrangiava, deve essere, dice no, io in Sardegna in vacanza, venivo in vacanza. E poi tutti dicono, anziché 73-51, 73-50, ragù per diminuire. Per risparmiare. Infatti mi sono ma tre, tutti e tre, 73, cercavano di dirlo, non è che lo dicevano bene perché l'italiano non lo parlavano bene, faccia 7-3-50. Vabbè, diminuito, in Germania rimanco. Io non ne sto facendo più di ex, l'altro giorno ho collegato uno dal Lago Maggiore, ho collegato, che erano quelli del Covid, balle varie, mezz'ora parlando stavano detto no, non ne voglio QSL, non ne ho casella postale, gli ho detto ma il computer ce l'hai, certo che ce l'ha, là te la mandiamo elettronica. Vabbè, ho compilato il form, me l'hanno mandata. No, io devo mandare a questo di dovere, esattamente, si chiama, non me la metto cosa, a Casarano, provincia di Lecce, ma mi raccomando, mandamela, quando già ho tempo già te la mando. No, ma ieri c'era questo di Vicenza, mi ha fatto troppo ridere, siccome è proprio con l'accento di quelli cacchio furti, pronunciati, e mi diceva sono italiano, sono... Io pensavo che fosse qualche straniero spagnolo, e ha detto, vedi questi spagnoli d'ora parlando, non mi ricordo con chi ero ieri, e là lui entrava, guarda che sono italiano, non d'Italia, sono di Vicenza, di un paese vicino, adesso mi ricordo che paese vicino, ma non si capiva niente, noi diciamo molte volte i napoletani che non si capisce, questo non riuscivo a capire, perché parlava, deve essere anche anziano, un po' dialetto suo, ma cazzo, mi ha fatto troppo ridere, ma arrivava a bomba, era una cosa spettacolare, in FM, fortissimo. Me la posso immaginare, Robert. Aspetta, sto cercando quella QSL. Un attimo Luca. Luca, sei un bel basso di radio, cosa hai toccato? No, almeno io Robert, adesso... Chi è che mi ha detto? Roberto Micu. Ciao Antonio, e come sei così basso di radio? Antone sei proprio basso basso di radio, il segnale è quasi 9-10, ma la radio sembra che stai parlando a voce bassa da lontano, un bel paperina, poco chiara, non capisco perché. È bassissima, se ti tiro fuori con le pinze la radio, tra l'altro c'è molta propagazione oltre 9, ti ascolto, però la propagazione è un po' ogni tanto dà qualche disturbo. C'è anche Luca, non so se ti ha ascoltato, ma non ci credo perché arrivi 9 qua da me, 9.5. Vediamo se ti ha ascoltato. Luca, l'ha ascoltato Antonello? Antonello chi? Cos'è tu? Antonello chi? Adesso c'è la propagazione, adesso stanno iniziando a scavalcarvi i segnali. Cosa hai detto, Lu? Mi senti, Romero? Ti sento, sì, però ti stai portando appresso un qualcosa di battimento. Cosa hai detto, Lu? Mi sento io, Romero. Hai Roberto Quadrato. Cosa hai detto, Max? Ho detto, hai Roberto Quadrato. Io non so cosa, l'amico vostro. C'è anche Luca, Antonello Barracuda e Nattarino. Di nuovo Antonello, riprova a parlare un po'. No, adesso il segnale è 6,9, poco fa era più alto, però il problema è la radio, non è il segnale è forte, il problema è la radio, proprio quasi impercettibile, bassissima. QTC per Natalino, canale 20 se ci sei. Esecutivo. Vai di nuovo Antonello, stai uscendo bassissimo. Luca, prova a parlare tu adesso, se ti ascolto che poco fa ti hanno scavalcato il QRM e sì, la propagazione. Adelante Spagna. Hola. Aspetta che facciamo qualcosa. Adelante Spagna, Italia che ti lancia, avanti. Attento in Spagna se scucci l'Italia che chiama. Roberto. Vivi tu. Aumentato. Sì, diciamo più o meno il segnale è uguale, però adesso ti tiro meglio perché poco fa c'era questo spagnolo che parlava. Ah, ok, dai. Oh, vabbè. Ma cosa, Barracuda che sento basso di radio, proprio quasi non si sente. No, qua non arriva, eh. Antone, sei bassissimo di radio, ma proprio impercettibile. Il segnale sei oltre 9, 9 e 10 questo passaggio, però la radio c'è qualche problema al microfono, o avvicinalo più alla bocca, non lo so. Il segnale sei quasi 9 più 20, è fortissimo, però la radio è proprio zero, sembra che sei completamente strozzato e stai parlando con il naso tappato ma da molto lontano. A me mi ascolti bene con le coordinate? Ok, va bene. Luca l'ha ascoltato adesso Antonello. Oh, Luca forse si è spostato. Attenzione Spagna, se scucci l'Italia che va chiamando QSL. È meglio che così non ci sono più propagazioni inutili, dai. Ok, Luca sei rientrato. Attenzione 10, che è rimasto?